restando invece nel tuo territorio? Ma io mi sono trovato molto bene con gli attori professionisti tipo Fabrizio Gifuni, Donatella Finocchiaro, Beppe Fiorello. A volte posso avere delle difficoltà con chiamiamolo il cinema romano per quanto riguarda la totale indipendenza, libertà nelle scelte registiche. Non è che nessuno mi ha mai imposto qualcosa, è che sei condizionato dall'apparato produttivo, dal fatto che la Rai ti ha dato 2 milioni di euro, che c'è un produttore che ha chiesto il fondo garanzia e quindi è responsabile di un budget di 3 milioni, di 1 milione e mezzo, di 2 milioni e mezzo. Il fatto di essere da solo, questo film ultimo, grazie di Dio, con due soci della Saietta Film, ti porta a essere molto molto più libero da condizionamenti e quindi è più facile che faccia delle cose originali, autentiche. Poi io so che il cinema è anche industria e a me piacerebbe rifare un grosso film con attori, cioè c'è storia e storia. Se io avessi fatto In grazia di Dio o Sangue vivo con attori professionisti che recitavano in un finto salentino con delle facce con la finta intensità di certi attori italiani, accademica, diciamo, sì, quella, sai la che, scuola, esatto, perché molto spesso il problema con gli attori è che devono essere veramente bravi. A volte mi consigliano gli attori che sono attori professionisti, però dico ma non mi vanno bene, ma sono famosi, vabbè che sono famosi, ma non vanno, certo. A me non dicono molto. Allora se deve essere un attore deve essere veramente bravo. Per questo io ho insistito ad avere Donatella Finocchiaro e Gifuni, perché Donatella non è solo brava, è giusta. Lei infatti ogni tanto si lamentava, che diceva smettila di dire che sembra una paesana salentina, e dico, ma tu sembra, è un complimento, figurati. Gifuni non è solo bravissimo, è anche lui al fisico, certo, da borghese proprio. Sì. Forse quello, Galantuomini, è il tuo film più universale, tra virgolette, quello diciamo più di industria. I film meno venduti all'estero sono Il Miracolo e Galantuomini. Certo. Quelli invece, più industriali in Italia. Sì, quelli più industriali in Italia. Quelli che hanno attirato più i festival e i compratori internazionali sono Pizzicata, venduto in 26 paesi, Sangue vivo, che è andato bene in Francia, in Giappone, in altri paesi, e poi questo qui, che è stato già comprato da 8 paesi, trattative con Francia, con certo. Stati Uniti. Dicevi invece che stai lavorando a un film fuori dal tuo territorio, ti vengono i brividi un po', raccontaci un po' di questo. No, è una storia che mi è stata commissionata, è un film tratto dal romanzo di Francesca Melandri, Eva dorme, ed è una storia ambientata nell'Alto Adige, Sud Tirol, ed è la storia dell'Alto Adige attraverso le vicende di una donna che percorre tutta la storia dell'Alto Adige, soprattutto gli anni 50 e 60, che erano anni di grandi conflitti fra italiani e tirolesi di lingua tedesca. Penso che l'abbiano chiesto a me perché forse non gli dispiaceva il mio cinema, però abbia contato moltissimo, penso che abbia contato moltissimo il fatto che io sia italiano e mitteleuropeo da parte di madre, perché mia madre è austro-ungherese, è cresciuta in Ungheria, però di lingua tedesca, quindi quello ha contato, conosco le due parti. Certo, pensavo fino in costume in un certo senso. No, sicuramente in costume. Cioè è ambientato in quell'epoca lì. 50-60, certo, sì, sì. Bel film produttivamente. Sarà un film come minimo da 3-4 milioni di euro, ma come minimo. Pensi di girare quando più o meno? Penso l'anno prossimo. L'anno prossimo. Edoardo Winsper alla Rosa Purpurea, un regista che continueremo a seguire qui nella nostra trasmissione. Adesso giochiamo insieme perché c'è da sentire la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ma che ne sarà di noi? Anche noi potremo ricominciare, credo. Un mondo nuovo e migliore. Prima però dobbiamo costruire. La Rosa Purpurea, @radio24.it, vostro nome, cognome, indirizzo, il titolo del film, se lo avete indovinato, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. La Rosa Purpurea. Ecco.